Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. In un paese senza memoria e dunque destinato all'oblio, pochi ricordano che il 2 settembre 43 è la data che fissa l'inizio della lunghissima scia di sangue che ha colpito negli anni le forze dell'arma dei carabinieri. Il 2 settembre del 43, quello che poi passò alla storia come il bandito Salvatore Giuliano, uccise il carabiniere Antonio Mancino, che si era arruolato per sfuggire alla miseria di Sparanese, il comune di poco più di 7.000 anime in provincia di Caserta, dove era nato solo 24 anni prima. L'assassino senza pietà, ricorda oggi Sonia Alfano, presidente dell'Associazione Nazionale dei Familiari di Vittime di Mafia, avvenne in nome degli sporchi interessi che pure erano tutelati da buona parte delle autorità del tempo. Questo dimostra come la violenza mafiosa abbia sempre avuto entrature e coperture a livello istituzionale. 68 anni dopo e con molti morti sul campo dimenticati, questo anniversario dà lo spunto per riflettere sulle condizioni con le quali le forze dell'ordine, l'arma dei carabinieri, la guardia di finanza e corpi militarizzati o smilitarizzati, penso ad esempio agli agenti di polizia penitenziaria, affrontano quotidianamente malavita e illegalità. Intendo dire sul campo, ogni giorno, e non al chiuso di un ufficio seduti su una sedia. Ma basta poco per rendere l'idea. Basta un esempio, quello di Firenze, dove i poliziotti rischiano di tornare a cavallo per inseguire ladri e scippatori. Il 16 agosto, mentre la gran parte degli italiani smaltiva ancora i bagordi del Ferragosto, il sindacato di categoria ha ricordato che la polizia fiorentina ha finito i buoni benzina, nonostante stia cercando di rastrellarli sull'intero territorio nazionale, fra le questure che ne hanno ancora a disposizione. Speriamo che non finiscano anche i buoni per il fieno, quello che servirà ai cavalli. Buona giornata e a domani.